Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Stampa e Vangelo, l'ultima puntata della settimana, perché la campagna referendaria, come sapete, oggi si conclude, domani sarà giorno di silenzio elettorale e rispetteremo anche noi del Popolo della Famiglia TV la giornata di silenzio elettorale. Ringrazio gli amici del PDF di Roma con cui ieri abbiamo fatto tardi, ho pagato un po' le conseguenze della serata fuori, la mia prima dopo la malattia, ma insomma Mirko De Carli, Roberto Mura, Andrea Goitan, Emanuele Pizzatti, Alessandra Tumino, Alberto Rossignoli, Federico Pieroni, siete testimoni che insomma sono ancora in piedi. Un saluto a tutti voi. Anche a Laura Quarta, a Leonardo De Stefano, Giovanni Marco Tullio. E allora, le notizie di oggi sono molto rilevanti. Sicuramente, i giornali vivono della vigilia, del referendum. Saluto Francesca Soncini, Francesco Vir, Arturo Derviso, Angela Ciconte, Romana Cordova, Pasquale Sapia. Gabriele Neri che dice sempre in prima linea, esattamente, sempre in prima linea, questo è il nostro obiettivo. Saluto Ottavio De Lutio, Andrea Dolcini e tutti gli amici che si connettono. Barbara Moi che ieri era presente al coordinamento del Popolo della Famiglia di Roma. Saluto Leonardo De Stefano. Mauro Rotunno, anche lui protagonista della riunione di ieri sera, in cui siamo detti delle cose molto nette, molto chiare. Saluto Michela Serangeli, un leale monito, Danilo Leonardi, Rita Mesiti, ed eccoci qua. Anna Russo, siamo molti, come sempre vi chiedo un mi piace, un condividi, perché la lettura del Vangelo possa andare a più persone possibili. Mirko De Carli dice campagna elettorale fino alle 24, poi silenzio, domenica a votare no. Daniela Grechi, Alberto Gergo, Ottavio De Lutio, è arrivato anche Nicola Di Matteo che ha coordinato la riunione di ieri sera del Popolo della Famiglia di Roma. Saluto Fausto De Simone, Michele Taboni, mi piace un condividi per far vedere la nostra puntata a più persone possibili oggi, in particolare la ultima giornata di campagna referendaria. Ninnarello, Enrico Marotta, arriva anche Salerno nel palinsesto PDF TV con Raffaella Dinolfi, Danilo Leonardi, Nino Monteviso che invece vota sì, Alessandra Tumino che ripete il suo no, Barbara Moi, Massimiano Esposito, Giuseppe Narciso, anche lui vota no, come Federico Pieroni, Andrew Clements che ci scrive dall'Australia, ricordiamolo, Anna Esaurita Eccelli, Riccardo Ronconi. Allora andiamo a leggere il Vangelo di oggi, il Vangelo che arriva dal nono capitolo del Vangelo di Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguivano urlando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Allora, entrato in casa, i ciechi gli si accostarono e Gesù disse loro: Credete voi che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Sia fatto a voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione. È parola del Signore, è un Vangelo molto toccante. I ciechi che tornano a vedere è, diciamo, la metafora perfetta della salvezza cristiana. Indubbiamente, l'incontro con Cristo modifica la lettura delle cose davanti a noi e appunto la cecità diventa piena vista. E ovviamente, dal punto di vista metaforico, è straordinaria la forza di queste pochissime righe, sono solo quattro versetti del Vangelo di Matteo. Ma guardate quanta potenza anche nelle immagini, anche nella raccomandazione del silenzio che viene immediatamente e fragorosamente infranta dai due miracolati. Un messaggio, essere ciechi davanti alla realtà, è il dramma della nostra contemporaneità. L'incontro con Cristo consente di diventare persone che vedono, e questo è davvero un elemento significativo che possiamo traslare immediatamente sul piano dell'attualità. Il piano dell'attualità è sicuramente il piano del tema del referendum di domenica. Siamo dentro una partita che sta diventando durissima, è stato messo in campo di tutto. Ieri il Presidente del Consiglio è arrivato a paragonare i cattolici che temono che il sistema monocamerale sarà il luogo in cui facilmente verrà approvata la legge Scalfarotto o la legge sull'eutanasia, cose che tra l'altro sono già reali perché la legge Scalfarotto alla Camera è stata già approvata, per esempio, quindi non è che stiamo inventando nulla. Ci ha paragonato ai seguaci del mago Telma, con un sussulto di irrispettosità che ovviamente viene dal tempo del Family Day, quando lui sostanzialmente ignorò qualsiasi richiamo da parte nostra, rifiutò qualsiasi incontro e costruì le condizioni di una cavalcata solitaria, chiamiamola così, verso l'approvazione della bruttissima legge Cirinnà, nonostante l'opposizione di tante milioni di persone che si sono ritrovate in piazza e che erano rappresentate dal mondo del Family Day, non solo cattolico per la verità, insomma. Questa mobilitazione che oggi si manifesta anche attraverso il voto al no al referendum, inevitabilmente, perché quello striscione Renzi ci ricorderemo rimane tuttora valido, ed è legittimo che ci sia una valutazione negativa del suo operato di governo e quindi anche del suo operato come riformatore costituzionale, a partire dalle modalità con cui ha approvato quella normativa, ricordiamo col voto di fiducia. Ecco, tutto questo noi abbiamo strutturato anche un pensiero un pochino più organico che trovate oggi come editoriale sul quotidiano La Croce. Le ragioni per cui votiamo no domenica lo trovate anche qui sul mio profilo Facebook. Se volete trovare, c'è un lungo testo che ho pubblicato come ultimo post mio personale prima di questa diretta, pubblicato ieri sera, ieri pomeriggio. E oggi sul quotidiano La Croce invece trovate proprio stampato, potete conservare e farlo girare se volete, appunto, il mio personale contributo al no al referendum, con una serie di motivazioni credo molto articolate. Qualcuno si è lamentato dicendo che è lunghissimo quello che ho scritto, è vero, ma volevo ci fossero tutti i punti ben articolati. Tra te e Family Day, che ci sta in comune? Franco Rossi Marcelli dice: beh, sono stato sul palco a parlare al popolo di Family Day sia a giugno che a gennaio, sia a San Giovanni che ha al Circo Massimo, quindi un po' di qualcosa in comune col popolo Family Day, caro Franco Rossi Marcelli, evidentemente. Dunque, dicevo, con il Quotidiano La Croce di oggi trovate l'analisi un po' più approfondita delle ragioni per cui votare no domenica, e se volete ci ho aggiunto anche alcuni elementi personali, conosco bene Matteo Renzi da anni, e ho raccontato anche alcune questioni relative al mio rapporto con lui, e dunque quel materiale, se volete, è uno strumento per rafforzare, le motivazioni del no anche in termini molto analitici, ricordando che, le ragioni, diciamo così, del no possono benissimo essere politiche e di merito. Cioè, ovviamente si ragiona sulla legge elettorale, ma non nascondiamoci dietro un dito: l'eventuale vittoria di Renzi domenica al referendum, una vittoria che sarebbe contro tutti, perché ricordiamo che è schierato contro Renzi su questo referendum ogni partito di opposizione, anche un pezzo del suo partito, un pezzo del PD. È evidente che sarebbe una vittoria che rafforzerebbe talmente tanto Renzi da renderlo dominus incontrastato del sistema politico italiano. Di questo dobbiamo essere evidentemente consapevoli. I giornali riferiscono degli ultimi duelli, in particolare tra Renzi e Grillo, parlano di un PIL che vola verso il più 1%. ci sono le preoccupazioni espresse dal Fatto Quotidiano attraverso la satira, una risata per il no, con una copertina del Fatto Quotidiano affidata il suo disegnatore principe, si chiama Mannelli, che pubblica un ritratto di Renzi e della Boschi, Il mistero, la santissima binità, la chiamano. Una palla di qua, una palla di là, nel mezzo che ci sta, questa è la titolazione oggi del Fatto Quotidiano, abbastanza irrispettosa, ma insomma fortemente divertente, diciamo così, molto ben disegnata anche, devo dire la verità. Mentre Libero preferisce la notizia, quella sì, terribile, dei due arrestati di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, il medico e l'infermiera stragisti all'ospedale di Saronno con la loro eutanasia improvvisata. Pare che abbiano soppresso 50 persone, non più 5, sono state sequestrate 50 cartelle cliniche in un ospedale che sembra essere diventato l'ospedale degli orrori. Voglio parlare anche un po' di cronaca, dovrei parlare anche di Hollande. Ricordate il padre del matrimonio per tutti, il mariage pour tous, cioè del matrimonio omosessuale in Francia? Bene, ieri ha annunciato che non si potrà ricandidare alle elezioni presidenziali, visto che i sondaggi lo danno al 7%, un presidente della Repubblica eletto col 60% pochi anni fa. Dopo la legge sul matrimonio omosessuale è arrivato al 7% di consenso. Io lo ripeto, lo dico a Renzi, guarda che Hollande ha fatto questa fine, Zapatero non sappiamo neanche su che pianeta sta, David Cameron, il premier conservatore che ha trasformato le unioni civili in matrimonio omosessuale, ha fatto la fine che ha fatto con la Brexit, Obama, un altro padre del matrimonio omosessuale negli Stati Uniti, avete visto che fine ha fatto, non so, diciamo così, se questi precedenti saranno fortunati, diciamo così, precedenti per il buon Matteo Renzi. La mia lettura è che queste cose non sono casuali, ma che se uno legifera contro la famiglia, fa leggi antipopolari, alla fine il popolo si ribella e manda a casa tutti. Cosa pensi di amnistia e indulto? Mi viene chiesto con una qualche insistenza, dipende dai casi, diciamo, bisognerebbe valutare. Indulto su quali reati, con quali formule, per quale obiettivo di decongestionamento delle realtà carcerarie, insomma, sono tutte cose che richiedono un dibattito piuttosto complesso che oggi certamente non faremo. Intanto Chiara Sammorì giustamente ricorda che in Francia è stata approvata solo da un ramo del Parlamento, per fortuna per ora, la legge liberticida contro chiunque invita le donne a non abortire, compresi i siti di informazione cattolica. Quindi attenzione, legge liberticida pesantissima, approvata per ora solo da un ramo del Parlamento. A febbraio potrebbe esserci l'approvazione definitiva. Credo che servirà una mobilitazione internazionale contro questo orrore. Cioè, non si potrà più spiegare gli effetti dell'aborto, non si potrà più fare pagine in cui si dice no all'aborto. Questo è qualcosa di davvero incredibile. Ma la Francia si è portata molto avanti con la legislazione. Quando noi protestiamo contro la legge Scalfarotto, protestiamo perché c'è in vigore in Francia una legge molto simile, che ha portato, per esempio, all'arresto di molti manifestanti delle ultime manifestazioni pro famiglia che ci sono state in Francia proprio in occasione del mariage pour tous. Saluto Cristina Zaccanti, saluto Gianluca Giudice. Volevo parlarvi oggi in chiusura di puntata anche di un fatto terribile, l'ennesima storia di una ragazza giovanissima, stavolta a 25 anni, uccisa dal solito mix di alcol e droghe a Bologna in un rave party. Ennesima storia, la ragazza purtroppo anche incinta in questo caso. Quante ne abbiamo sentite? Quest'anno è stato terribile. I nostri giovani uccisi da questo massacro, delle finte feste che non sono feste, di amici che non sono amici. Non lo so. È dolorosissimo per me. Io, una ragazza, ho una figlia grande di 21 anni. Quando l'altro giorno ho sentito la storia di Cranio Randaggio, ennesimo ragazzo di 21 anni, anche lui a Roma, ucciso dal mix di alcol e droghe. Quando in questi giorni stanno emergendo i particolari su quello che è stato fatto a Roma a Luca Varani dai cosiddetti amanti diabolici della notte gay romana, Foffo e Mark Prato, che adesso si scaricano uno sull'altro la responsabilità dell'omicidio, mix di alcol e droghe per uccidere il povero Luca Varani. Storie davvero terribili raccontate da Davide Varani, oggi sulla Croce, come dice, ricorda Giovanni Marco Tullio. Davvero trovo incredibile a addolorarsi continuo, ma vano. Anzi, c'è chi dice che bisogna liberalizzare ancora di più le droghe, è una cosa da pazzi. Questa storia è particolarmente rilevante perché la mamma della ragazza ha postato un post molto duro su Facebook contro i cosiddetti amici, postando anche le immagini della ragazza morta. Non avranno il giro di attenzione che ha avuto le immagini di Stefano Cucchi, ovviamente, parlare di queste cose è tabù. Però, davvero il nostro pensiero va in maniera molto solidale a questa mamma. Quelle foto sono una sorta di pietà laica, pubblicata su Facebook, il dolore di una madre con la figlia accasciata al suolo da una fucilata che arriva dall'insensatezza della nostra società, che uccide i nostri ragazzi con il nulla, con la prospettiva del nulla. E questo davvero, quando sento poi Renzi dire che chi crede e teme per la crescita di leggi violenti come quella sulla eutanasia o la legge liberticida con una scalfarotta e paragona quei cattolici, lo dice con tono infastidito, al mago Telma, ecco. Non so, è stata una caduta di stile che davvero non mi aspettavo. Forse davvero, ancora una volta, torniamo al Vangelo di oggi. I ciechi hanno bisogno di vedere, altrimenti senza quel miracolo, i ciechi che tornano a recuperare la vista, che è quello della nostra società contemporanea, lo sfacelo diventa orribile, lo sfacelo diventa quello, e come al solito lascia sul selciato le vittime più deboli, come sempre. Alla fine di questi processi, l'esito è sempre il massacro dei soggetti più deboli. Ed è tutto collegato, si tiene tutto, tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi, dalla campagna per il no referendum alla vicenda tristissima di questa ragazza, ai morti, 50 morti nell'ospedale perché due matti, un medico e un'infermiera decidono di giocare a Dio e di uccidere. Ora, il meccanismo è sempre lo stesso: se tu hai il vuoto davanti a te, non sai leggere la realtà, non hai avuto l'incontro che da cieco ti fa diventare qualcuno che vede, diventa la società quella che descrive adesso Danilo Nardi, ciechi che guidano altri ciechi. E dentro questo processo restano sul selciato i più deboli. Ci rimettono i ragazzini non nati, i ragazzini appena nati, i malati, i depressi, i giovani che non sanno orientarsi, gli anziani, cioè tutto ciò che è debole, la catena nel suo anello debole inevitabilmente cede e si spezza. È esattamente quello che dice Alessandro Zorco, cioè la cultura della morte. E noi invece dobbiamo batterci, popolo e famiglia si batte per la vittoria netta della cultura della vita. Va bene, io anche oggi ho chiuso, ragazzi, la puntata. Vi ringrazio molto per la partecipazione, una partecipazione molto calda. Non mi resta solo altro che da dire. Domani è silenzio elettorale, domenica mi raccomando, tutti a votare, votare no convintamente. Se vi servono le ragioni, lo ripeto, oggi c'è l'editoriale sul Quotidiano La Croce con le ragioni molto analitiche. Se non siete abbonati al Quotidiano La Croce, ho messo anche il testo come ultimo mio post di ieri, eh? Se andate qui lo trovate, lo potete leggere, ci sono tutte le motivazioni elencate, inserendo dentro anche la mia esperienza personale del rapporto con Matteo Renzi, che ho da molto tempo. Intanto Gian Giacomo della Rovere, che immagino sia un nickname, dice: Mario, mi rispondi, non ho visto la domanda. Costantino Montebove dice: ieri Renzi da cattolico ha paragonato il Papa al mago Telma. Evidentemente è così. Io sono arrivato alle 8:59, quindi fra un minuto scatta la scudisciata della Pongiluppi Eleuteri e di Francesca Centofanti, che mi hanno anche criticato perché ieri ho disobbedito al medico e sono andato alla riunione del coordinamento romano. In effetti un pochino l'ho pagata, però insomma siamo ancora in piedi. Saluto Nicola Di Matteo che fa giustamente un appello a portare a votare anche le persone anziane. Bravissimo Nicola, sempre operativo e tecnico nella sua capacità di organizzatore unico. Dunque portiamo anche a votare le persone anziane. Saluto Claudia Brignoni, facciamo quest'ultimo sforzo nel weekend di battaglia, facciamo davvero questo combattimento perché è giusto farlo e sappiamo che è un combattimento per i nostri figli, per lasciare loro un'Italia che ancora regga sulla Costituzione scritta da De Gasperi, Moro, Togliatti, Nenni e Benedetto Croce e non su quella scritta da Boschi, Verdini, Alfano e Renzi. Credo davvero che sia degno del nostro paese difendere la sua Costituzione con il portato del bellissimo dettame scritto e firmato nel dicembre del 47 e in vigore dal 1 gennaio 48. Vedremo cosa succede, giudicheremo poi i fatti. A questo punto potremo solo. Gian Giacomo Della Rovere dice: hai capito? Non ho capito, non scrivi la domanda, non riesco a capire. Poi scrive Gain Giacomo, quindi questo è un nickname un po' scemo. Non mi fate perdere tempo, ragazzi, veramente non ho neanche le forze, come forse è evidente. Tanto sono arrivato alle 9:01 oggi della nostra diretta. 9:01, siamo oltre la fase che mi viene consentita anche dal nostro coordinamento editoriale. Ho visto arrivare anche la Francesca Centofanti. Ringrazio tutti per la campagna referendaria svolta fino ad oggi, in particolare il popolo e la famiglia di tutta Italia che si è impegnato in maniera davvero straordinaria. Mi dispiace molto, lo dico in chiusura, che Avvenire abbia annunciato una ambigua astensione sul referendum. Era più ragionevole che Avvenire si schierasse con il no, che i vescovi, la Chiesa si schierasse con il no. Non è accaduto, per l'ennesima volta si è scelta la via di Ponzio Pilato, no? Vabbè, laviamoci ste mani e come va, va. Questa è una scelta che francamente per me non. Non ha senso, lo devo dire. Popolo e famiglia, supplite a questa difficoltà, supplite a questa difficoltà di chiarezza che evidentemente ha la Chiesa italiana. L'astensione annunciata oggi da Marco Tarquinio è una iattura su Avvenire, la considero davvero una prova ennesima di mancato coraggio. Che dobbiamo fare? Sopportiamo anche questo, meglio di quelli, ormai sono tanti purtroppo, che fanno loro propaganda per il sì, insomma, quindi vabbè, Avvenire e i vescovi hanno deciso di avere questo tipo di atteggiamento. E come dice Gloria Callarelli, dice pazzesco, tutti ignavi, dice Ester Corona, Chiara Samorì, Mosciume Cattolico Liberal, ambiguità. Incapacità di essere semplicemente fedeli al dettato evangelico, il vostro parlare sia sì, no, no. E invece hanno scelto sempre la strada dell'ambiguità in questo periodo e questo ha fatto del male pesantissimo alla nostra società. E questo mi fa molto arrabbiare, però devo stare tranquillo, non mi devo agitare. Lasciamo che Renzi consideri noi quelli del mago Telma e si faccia le sue telefonate, cene, pranzi con gli amici di Avvenire della Conferenza Episcopale. Pensiamo davvero che sia sia più giusto invece avere un atteggiamento netto. Il popolo, la famiglia l'ha avuto e facciamo la battaglia in maniera seria. Gian Giacomo della Rova dice: perché non dici la novena qui in diretta? Perché gli atti di fede io personalmente non li compio in diretta o pubblicamente. Alessandro Zorco dice: astensione pilatesca. Adriano Di Donato dice: ma il cristiano deve testimoniare la verità. Esattamente. Ester Corona dice: il diritto all'ambiguità, siamo anche a questo. Vabbè, fatemi pregare per Francesca Centofanti, che ha la febbre anche lei, così si impara a fare la madre cattiva con me, dicendo che non devo andare al coordinamento dei romani perché altrimenti mi ammalo. È vero che un po' l'ho pagata, la cosa del coordinamento di ieri sera, però era giusto andarci. E quindi adesso la Centofanti, preghiamo per la sua guarigione, di questa splendida mamma che fa anche il coordinamento editoriale di Popolo e Famiglia TV insieme a Manuela Pongiluppi e Leuteri. Forza, tutti al voto domenica, a votare no con coraggio, con nettezza, a testa alta, e spiegheremo magari anche in chiesa le ragioni del nostro no, se volete anche con l'editoriale che oggi vi fornisce il quotidiano La Croce, un po' diverso dall'editoriale che purtroppo vi ha sottoposto il quotidiano Avvenire. Poi loro hanno i milioni di euro della Conferenza Episcopale, fanno il grande giornale, lo trovate in tutte le edicole, però noi col nostro piccolo giornale, che se volete, se potete, potete sostenere con un abbonamento, proviamo a dire cose che poi alla fine spero restino in qualche modo scritte da qualche parte, ricordate quando poi tutto questo sarà storia, perché in effetti tutto questo sarà storia. Un ringraziamento, un abbraccio a tutto il popolo e la famiglia. Di nuovo l'ordine di andare a votare no e di portare, come dice Nicola Di Matteo, tutte le persone che possono a esprimere la difesa della Costituzione anche nella urna di domenica. Un abbraccio da Maria Di Nolfi, buona giornata a tutti, buon referendum.